fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui di nuovo, 4:10 del mattino, martedì 1 gennaio del 2019, intervista a 4, che però si divide chiaramente in due fazioni, quella dei professionali e professionisti, che siamo io e la Grace, e quella di quelli che si sono innamorati e si stanno amoreggiando. I due piccioncini. E pensare che non sono dilettanti. E il suo, ognuno ha il suo ruolo all'interno della società, e quindi è giusto che ci siano quelli che insomma fanno il loro sporco lavoro e quelli che si amano. Giocare. E quelli che si amano, sono più fortunati. Dici che si fanno lo sporco lavoro? Noi facciamo lo sporco lavoro. Quello di portare avanti la comunicazione, l'intervista, e loro, fortunati loro, riescono ad amarsi e ad innamorarsi perché sono più fortunati di noi. Quindi vuol dire che il nostro è pulito. Il vostro? Certo. Qualcuno mi ha palpato le mie tettine. Ah, ti hanno palpato, che bello, vedi? È la mia amica. Ah, è la tua amica, non rimane tutto interloss, come si dice di solito, internos, ma per loro è interloss. Bei momenti a cui purtroppo, come sempre, noi non possiamo partecipare, siamo qua a guardare e a goderceli dalla quarta fila. Bene, allora ovviamente avrete capito che sono venute a trovarci le nostre ormai amicissime Grace e Cristina. Cristina in questo momento ha fatto provare al nostro amico il nuovo Arbre Magique che ha appena comprato. Gli ha fatto, come dire, provare l'ebbrezza. Sì, è il nuovo profumo, l'Arbre Magique, che si chiama, è un profumo particolarissimo, è una nuova linea di Dolce & Gabbana, si chiama Tête à Tête. Proprio questa nuova linea, è dura, è un brutto lavoro. Questa linea nuova, tête à tête, per l'uomo che non deve chiedere mai. Si chiama slimonata. No, non era una slimonata, era proprio un tête à tête. Sì. Ha fatto una perlustrazione tra il paesaggio pedecollinare della... Ha voluto indagare, assolutamente sì. Allora, intanto buon anno, partiamo dalle cose facili. Buon anno a voi. E com'è andata questa serata? Benissimo per il momento, diciamo. Bene. Sì. Diciamo che dopo un primo mojito, essendo digiuno, eravamo un po' brilline. Al di là. Allora, ci siamo fatte un bel piatto di ravioli, buonissimo. Che quelle sistemano lo stomaco. E giustamente Gabriele ci ha offerto. Quelle sistemano lo stomaco. Grazie Gabriele, sei un amore. E va tutto bene. Bene, ci fa piacere. Non chiedo a... No, beh, lui può parlare, perché certo. Cristina, no, si sa che ha fatto il voto del silenzio. Giusto? Sì, allora, le parolacce non si dicono? No, dicevo, non chiedo a Cristina, non per scortesia, ma perché lei, come sapete, ha fatto voto di silenzio. Esatto, ha fatto voto di silenzio. Dai, quindi conosciamo il fortunato vincitore della lotteria Slinguazza Cristina, la lotteria di fine anno. Ha vinto, ha pescato il biglietto fortunato e quindi ha vinto questa possibilità. Ma di... Slinguazza Grace non esiste? Non lo so, se vuoi vi posso vincere. Guarda, io a prescindere. Posso dirti una cosa? Mi sono un po' guardata in giro. Però ho detto vabbè, torno a casa da sola. Ma perché guardi male, magari, no? Capito? No, perché non ce n'è proprio. Ma non ce n'è proprio, niente. Allora dai, conosciamo anche il nostro nuovo amico? No, ma è come dare un nome, capito, quando guardi le cascate Niagara, cioè non puoi. Ah, non puoi, innominabili, cioè cercare di trovare degli aggettivi. Non li trova, capisco benissimo. E allora, cosa avete fatto stasera? Al di là di averci raggiunti in tarda serata. Niente, immagino. Di che, siamo rimasti, almeno io sono rimasta a casa perché ho lavorato fino a stamattina alle 4. Sai che tu faccio. Sì. Io faccio comunque la barista ora, a prescindere poi il lavoro radio che ho fatto per tantissimi anni. E quindi sono tornata stanca morte e mi sono leggermente riposata perché volevo fare una bellissima serata tranquilla stasera. Ci sta a recuperare un po' le energie. Anche perché io domani all'una, alle 13 domani pomeriggio, sono già al lavoro. Niente giorno rosso per te. Già lavoro. Esatto, giusto. Allora, come va? No, beh, io lui non chiedo. Sta benissimo. No, ma chi è che sta peggio di lui in questo momento? Io voglio sapere. Io penso nessuno. Chi è che sta peggio di lui? No, in lui questo sta momento? Meglio di tutti. Che peggio? No, cosa dici poi? Anche perché adesso sta giocando praticamente, sai, l'insert coin. Lui adesso c'ha lì la fish, sta aspettando di inserirla nella fessura del videogioco e capire cosa succede. E quindi è lì che sta cercando si dove può, si mette. Si può dire alla radio scaccata? Scaccomatto? No, sì, cioè, nel senso, noi abbiamo capito tutto, però i nostri ascoltatori rimarranno con questa voragine interiore di quello che significa. Ti dico, cosa ne pensi di questa fish? Di questa fish? Sì. E io dico che tra due minuti non la vedremo più. Dice che faranno fuochi d'artificio? Sì, non la vediamo più, non la vediamo più. Evviva gli fuochi d'artificio! Lui cercherà il jackpot, cercherà di fare jackpot. Posso dire una cosa, sono proprio bellini, eh. Sono belli, stanno bene, stanno bene insieme. Poi sono allora, anche cromaticamente agli opposti. A prescindere la mia amica Cri, che ormai io la adoro, la amo e so chi è, però questa persona accanto... Posso dire che... È uno giusto. È un bravissimo ragazzo. Sì. Posso dirlo, sì. A prescindere dai cinquantenni, cioè non voglio offendere, però lui che è un pochettino più piccolino, però è molto più avvantaggiato. Avvantaggiato. Sì, sì. Bene. Oh, è un ragazzo molto rispettoso ed è quello che noi vogliamo, naturalmente. Ha fatto tombola, bravo. Altro che tombola, pure cinquina, di tutto hai fatto. Tutto, ha vinto tutto. Ha vinto. Grande sei. Ha vinto dall'inizio alla fine, bravo, bravo. Sì. Fortunato lui. E chapeau. Chapeau, certo. Chapeau. Che devo dire? Chapeau. Quando insomma si riesce a conquistare la preda grossa, bisogna dare merito a Cesare di ciò che è di Cesare. E infatti lui si chiama Antonio. Non si chiama Antonio. No. Niente. Infatti non diciamo il nome, però posso dire che comunque a differenza dell'età di questi uomini cinquantenni che pensano di avere il mondo in mano, non hanno capito niente. Per avere, non dovete avere il mondo in mano, ma delle fish. Una volta che avete in mano delle fish, secondo me, ragazzi, avete più giovani sono vinto. Molto più amorevoli. È vero. Amorevoli. Cioè, è vero, perché il cinquantenne punta, no, di dire vabbè, ormai è serata. No, non hanno ancora capito che noi donne cerchiamo ancora il corteggiatore. Sì, magari si sente un po' arrivato. Purtroppo un po' già è convinto, no, consapevole, di andare dalla sua preda e dire tu sei mia, no, non hai capito niente, io non sono la tua, non sarò mai neanche tua. Ci sta come ragionamento, lo condivido, lo capisco. Intanto abbasso il volume del microfono degli altri due ragazzi perché si stavano scambiando delle parole. Niente parolacce, ho sentito prima la frase. Non parole, erano insomma... come dire, frasi d'affetto, sì, certo, e che non si possono dire chiaramente in radio, sono under 25, cioè nel senso neanche i maggiorenni le possono sentire, sono sotto 25 anni. Non abbiamo capito niente, allora spiegaci. Direi tu. Andy Allora, io vorrei chiederti una cosa, cosa chiedi. Ne pensi del 2019? Come sarà per te? Madonna, non lo so e non mi faccio aspettative. No. Non mi faccio aspettative, io mi pongo piccoli obiettivi e cerco di raggiungerli. Allora ti faccio una domandina, cosa vorresti dal 2019? Realizzare gli obiettivi che mi sono posto. Cioè? Io mi pongo dei piccoli obiettivi durante l'anno e vari, dipende dall'anno. Intanto continuare a fare questo, che è la prima cosa. E poi un paio di cose che devo sistemare, di riuscire a sistemarle. Poi un paio di altre passioni che vorrei riprendere o coltivare. Quindi di poter avere il tempo, trovare il tempo di far tutto. E fondamentalmente quello. Cioè io alla fine del 2018 mi pongo due o tre puntini, li metto lì, li lascio lì. E poi cerco di raggiungerli nell'anno in corso. Ti faccio un'altra domandina. Sì, anche perché noi dobbiamo andare avanti fino a domattina, perché sennò loro due non ci danno una mano. Nel 2018 cos'hai lasciato che non ti piaceva? Cos'ho lasciato che non mi piaceva? Cioè, in realtà niente, in sostanza, ripensandoci, sì, tante cose. Poter dedicare più tempo ad alcune persone, poter riposare un po' di più perché ho riposato poco. Però non ho riposato non perché non avessi voglia, ma perché ho fatto cose che mi divertivano molto e quindi diciamo che ho dato più spazio alla vita che al relax. Faccio un'altra domandina. Vai, mi piace. Ti senti realizzato nella tua vita? O ti manca qualcosa? No, mi sento realizzato. Poi non mi accontento mai. Ma non perché voglia arrivare chissà dove, ma perché accontentarsi significa anche sedersi. Nei momenti in cui ti siedi, esatto, la vita ti salta addosso e ti mangia. Esatto, bravissimo. Per cui, ripeto, nulla di che, cose semplici, cose non irraggiungibili, ma qualcosina sempre da mettere a posto, da raggiungere, da fare, perché così almeno rimango vivo. Se no, se sei a posto, esatto. Se sei sempre a posto. Posso non chiederti un'altra più. Cosa? Cosa più. Cambieresti dal 2019? Cioè, tra il 2018 e il 2019, cosa vorresti che cambieresti? Che... c'è qualcuno che mi fa solletico sotto le scene, no. Mi sta leggermente palpando il sedere, però è la mia, è la mia amica. Sì, anche perché ormai la mano la riconosci, la mano sì, la riconosci. È femminile. Oh, scusa, intanto mi sono perso la domanda, rifai. E quella non era maschile, non era maschile. Qualcuno mi sta palpando il lato B, però è lei, la mia amica Cristina. Finché tu riconosci la mano, siamo no, è lei, figurati. Sì, siamo tranquilli. Volevo richiederti. Sì. Cosa cambieresti dal 2018 al 2019 e cosa non c'è? Ok, che quella volta che ci ho provato con la Cristina ci stesse. Quello cambierà, perché capito, poi è andata male, quindi mi piacerebbe tornare indietro così lei e che vedere che se magari ti è andata bene. Esatto, vorrei vedere cosa succede, le storie a bivio, no? Esatto, quindi volevo tipo le storie tese. Esatto, volevo vedere se ci fosse stata quando ci ha provato con me. Lei ci ha provato, certo, con te? Certo che ci ha provato con me. Ah, che c'è quella citazione che dice... davvero hai provato con lui? Mi hai detto di no. No, io non ti ho detto di no. Allora, tu sei che non va. Tu ti sei tirato indietro nel momento decisivo. Non è assolutamente, figurati se mi tiro indietro. Ma mi hai visto in faccia, ho mica scritto scemo in faccia. C'ho mica scritto Giotto. No, quella sera lì avevi dei problemi a casa. No, non c'è stata quella sera lì, perché me la ricorderei. E quindi niente, tornassi al 2018 spererei che Cristina ti direbbe di sì. Esatto, mi dicesse di sì o che continuasse nel suo tentativo di approccio fisico e mentale. Però ormai ha vinto lui, cosa dobbiamo fare? C'ha le fish lui. È lui che c'ha la mano. Correttamente. È lui che ha la mano in gioco. Ma sai cos'è la fortuna di lui? Che sei pessimista. Che lui è stato bravo. Non sono pessimista. Vita c'è anche Bluff. Non sono pessimista. No, fermati. Non sono pessimista. Io sono, come si dice, sono solidale con la mascolinità altrui, quindi... No, io anzi, tanto di cappello, però non dovresti essere così pessimista. No, non sono pessimista, no. Io non vado... Mai lasciarsi per vinti. No. Perché tu dovresti pensare che anche se l'altro c'ha le carte per vincere, okay? Ma hai notato che ha una fish in mano? Certo, sì, però una ce l'ha anche lei. Sai perché? Questo è un asso nelle mani. Non ce l'ha. A me mi chiamano KK, quindi KK, Com'è che ti chiamano? KK. Ah, certo. Sai cos'è? No. È la coppia di re nel poker. KK. Che può essere battuta solo dalla coppia d'assi. Ah. Ed ha un altro po' di mani, però parlando di coppie è solo la coppia d'assi. Però posso dirti una cosa? Allora, a prescindere, a parte gli scherzi, però loro noi ci siamo conosciuti qua. Però allora, questo ragazzo, c'è da dire, che lui è un ragazzo molto rispettoso. Sì, lui è stato molto prima, intelligente. Perché sicuramente hanno andato in giro i mosconi, no? Li chiamiamo così noi, no? Giusto? E quindi lui è stato molto una persona molto educata e rispettosa, e ti dirò di più, nonostante noi balliamo tutta la sera insieme, lui è una persona molto rispettosa ed è quello che noi donne cinquantenni vogliamo. Guarda che qui sta facendo, cinquantenni ancora non hanno capito, sta facendo una pubblicità incredibile qui, che è inutile che tu cinquantenne vieni a chiedermi di venire puntini, perché non ci pensiamo. Ma anche senza puntini già si era capito, anzi già quel verbo lì fa già capire molte cose. Cioè, il fatto sta che io poi divento timido, capito? Difficile non essere timidi di fronte a una ragazza così timida come la Cristina. Cioè, capisco che bisogna allinearsi alla sua timidezza, perché è vero. Sai qual è la cosa buffa? Cioè. Che allora, magari quando ci vedono che stiamo ballando, pensano chissà quelle due cosa cucano. Le tigri. Ma bravo. In effetti noi, e la Cristina, torniamo a casa sempre io e lei, senza nessuna tigre, perché comunque siamo due persone che si fanno rispettare, capisci? E che magari cercano altro. All'apparenza siamo appariscenti, naturalmente. Però le nostre forme non possiamo nascondere, ok? Per fortuna, però sai, la gente pensa, magari quella... Scusa, perché il ragazzo stava, si era dimenticato del profumatore della macchina e allora è andato, perché giustamente... No, perché giustamente il ragazzo dice, io ho la macchina nuova, devo cambiare il profumatore e devo capire se l'arbre magique che tu mi stai proponendo è interessante, ha un gusto buono, no? E quindi niente, diciamo, c'è questo gusto latte di mandorlato. Ma non dimmi che è la grappa, vero? Eh? No, quello è il latte di... No, è questo arbre magique al latte, che voi vi direte... Mi è caduta la fish. Mi è caduta la fish. E dov'è? Non si trova più. Chissà dove è andata, non si trova più. Però alla Cristina nel frattempo se l'ha cerata la gonna nel frattempo, oh, mentre cercavamo la fish. Sono stato bravo perché... L'hai trovata la fish? Non l'ha trovata, la sta ancora cercando, deve cercarla meglio. Cerca che ti trovi. No, nel frattempo volevo anche tornare sulla questione del profumatore, che dicevo che a primo acchito un profumatore al gusto latte dice che è schifo perché è un gusto latte, invece lui ha apprezzato i profumatori al gusto latte che la Cristina gli ha proposto. L'hanno trovata? Sì, l'hanno trovata. Hanno trovato la fish, tra l'altro non so se avete sentito il classico rumore della pubblicità del tavernello, perché quello così, e poi è uscita la fish stranamente, quindi chissà perché. Esatto, quindi un saluto anche ai rumoristi della pubblicità del tavernello che si sono palesati in questi secondi. Il pelo non era il mio. Ho notato una cosa fuori da questo studio. Io intanto ho notato che la fish non è più asciutta. No, io ho notato invece che ci sono persone che sono qui con questi occhi fuori dall'orbita. Non so da che parte stiano guardando, ma secondo me non dalla mia. Non dalla tua, dalla parte di sinistra più che altro. Esatto. Perché vedono magari non so che. No, non fatevi... non fatevi ingannare. Sono qui che sorridono, felici, contenti, spero che sia un buon anno anche per loro. Speriamo anche noi, assolutamente, come speriamo che lo sia il vostro, d'altronde, e ci fa sempre piacere... Comunque posso dire una cosa? Vai, che poi chiudiamo. Convento è una bellissima serata, devo dire che siamo veramente una grande famiglia. Sono pienamente d'accordo. Esatto, e niente, ci stiamo divertendo un sacco e mi raccomando, non mancate, siate sempre più numerosi, perché il Grande Convento è una famiglia e noi è quello che vogliamo, naturalmente. Brava, grande, grandissima. E un'altra cosa importante che lei si è dimenticata di dire: se passate di qui e dite al barman Master Nick ci devi provare con la Cristina e lei ci sta, vi offrono un drink. È importante, ricordiamo. Quindi se voi girate per il locale urlando Cristina ci devi stare con Master Nick, il barista vi offre un giro gratis. Ma scusa, ma la Grace con chi ci deve stare? Non so, anche la Grace, va bene, anche la Grace. Però diciamo che la Grace è un... Non gli hai detto di no. No, fermati. Ancora, fermati. No, vabbè. Ma la Grace è molto più difficile. No, è che tu adesso sei come Rita dalla Chiesa, perché noi siamo quelli di forum, capito? Già, e quindi tu eri... È vero. O la busta di Maria De Filippi. Io devo rimanere chiusa, sono Maria De Filippi e rimango chiusa. Se tu passi di là ci provo con te, perché lei perché lei diventa la busta e quindi io posso provarci con te. È vero, Cristina è solo un discorso, la busta. È solo un discorso di spazio. Cristina è la busta, quindi in automatico non la dobbiamo aprire. Non mi serve sapere chi c'è dall'altra parte. Cristina, io rimango nascosta e quindi in automatico arrivi tu. Esatto. Che bella la mia Cristina. Belle loro. Io e lei siamo due persone che ci amiamo la follia, non siamo lesbiche, intendiamoci, siamo due amiche che si amano e che si rispettano, e che la cosa più bella è che non siamo gelose l'una dell'altra, perché una donna che è gelosa dell'altra donna, beh, ancora dalla vita non ha capito nulla, perché tra donne, ricordiamoci una cosa, ci dobbiamo solo difendere e proteggere. Va bene, allora io vi saluto, vi ringrazio, così diamo anche spazio ad altri che vogliono raccontarsi un po'. È sempre un piacere stare con voi e fare due chiacchiere. È inutile dirvi ci vediamo presto, perché tanto so che è così, e quindi è sempre un piacere incontrarvi e rivedervi. Ragazzi, non mi resta altro che dirvi buon anno a tutti e in bocca al lupo per tutto. Buon 2019 a tutti, un abbraccio, ciao. Ciao ragazzi, è stato un piacere, fate i bravi. Ciao.